benvenuto, benvenuto a chi ci segue da casa, benvenuto a chi è qui, benvenuto a chi è Mottola. Sapete, oggi continuiamo la nostra avventura con il libro degli Efesini. Ci troviamo al capitolo 4 e io sono entusiasta di poter oggi condividere con ognuno di noi quello che Gesù ha messo nel mio cuore per questo incontro, e voglio subito con voi, senza indugio, lanciarmi nella lettura del capitolo 4 degli Efesini. Ci siete? Siete con me? Allacciamo le cinture? Questo lo dicevo sempre quando predicavo, quando ero giovane. Allacciamo le cinture e immergiamoci in questa lettura. Allora, è Paolo che sta ovviamente scrivendo agli Efesini e scrive così, dal verso 1 del capitolo 4. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Bellissimo. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Verso 3. Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto: salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, questo è salito, che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. È lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede, e lo ripete anche qui, vi ricordate, l'avevamo letto anche nel capitolo 1, e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo, interessante questo aspetto, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Da lui tutto il corpo, ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. Il tema di oggi, quello che vogliamo estrapolare da questi versi che abbiamo letto, che l'Apostolo Paolo ha scritto alla Chiesa in Efeso, è una Chiesa sana. Amen. E sapete, amen, grazie Pino, e sapete, io non sono degno di poter parlare di una Chiesa sana. Stiamo parlando della sposa di Cristo. Come possiamo, come posso io oggi, qui con noi, trovare qualcosa che possa spiegare questa Chiesa sana? Io che sono come voi. Però sono onorato di poterlo fare. E quindi ho pensato, siccome non sono degno ma mi sento onorato, faremo una conversazione a tu per tu, no? Facciamo finta che ci stiamo trovando a casa mia, che ci stiamo facendo un caffè insieme. E quindi ci confrontiamo su questa Chiesa sana. Ora, chiunque sa che si è mai incontrato con me nel corso di questi anni in cui ho servito e abbiamo fatto un appuntamento insieme, sa che quando poi noi ci vediamo non abbiamo molti filtri tra di noi. Cioè, pane al pane, vino al vino, no? Perché questa è la parola di Dio, giusto? Quindi questa mattina, forse non come non mai nella storia del mio condividere una predicazione, saremo proprio senza filtri. Siete pronti? Cioè, ci diremo le cose in mezzo ai denti. Vi piace? Se dobbiamo capire la Chiesa sana, ce le dobbiamo dire in mezzo ai denti, se no da qua non ne usciamo più. Ci state? A Mottola ci state? Allora, prima di andare a vedere gli aspetti e le caratteristiche che Paolo spiega in questi versi per la Chiesa di Efeso, ho pensato che è importante per noi capire il valore della Chiesa. Sapete, oggi, quando si parla di Chiesa, ognuno dice la sua. C'è chi non gli piace, c'è chi dice che la Chiesa è fatta solo di uomini, quindi opera di uomini, quindi io credo in Dio, non ho bisogno della Chiesa, perché tanto c'ho a Dio, e agli uomini non li voglio vedere, non li voglio pensare. C'è chi non piace, c'è chi si fa la Chiesa da solo. C'è chi va al bar, si vede con tre persone e dice abbiamo fatto la Chiesa oggi. Quindi ci sono tante cose, quindi io vorrei fare un po' di ordine, no? Perché è giusto mettere una base prima di andare a capire che cosa significa essere sani. Quindi vorrei un attimo capire con voi questa invenzione della Chiesa, da dove arriva, chi ce l'ha data, come ce ne siamo usciti noi oggi, 2022, a fare la Chiesa oggi. Vi ricordate? Questo lo vediamo spesso. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, sono tre, sono uno, non lo abbiamo ben capito, ma ci fidiamo. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo crea l'uomo, ci crea a sua immagine e somiglianza. Per tutti quelli che pensavano di venire da una scimmia, mi dispiace per voi. Nonostante io ho parecchi peli, sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Cosa è successo? Ci ha creato per amore. Dio voleva stare con noi, voleva avere un rapporto, parlava, passeggiava con Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden. Poi cosa succede? Hanno deciso di mangiare la mela. Che cosa succede? Dio ha detto ad Adamo ed Eva, voi vi dovete fidare di me. Potete fare quello che volete qua, però da quell'albero non dovete andare, perché quell'albero contiene in sé la conoscenza del bene e del male e quando voi lo mangerete, morirete. Fidatevi di me, perché io sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e noi tre ci accocchiamo insieme e sappiamo ciò che è buono e ciò che non è buono. Non devi saperlo tu, ti devi fidare di quello che io ti dico, perché io so, io ti ho creato, io sono il creatore, vuoi vedere che devo sbagliare? E noi che cosa abbiamo detto? No. Proprio a quell'albero dobbiamo andare. Come quando dico a mia figlia, non mettere il dito nella presa. La piccolina è più tremenda della grande. Mi ha rotto pure un granchio di porcellana bellissimo. No! No, e noi così siamo, no? E quindi l'uomo ha detto, no Dio, io lo devo mangiare quell'albero, perché io devo capire, devo decidere io per me. Ci sei tu che devi dire a me quello che è giusto e che è sbagliato. E quindi abbiamo disubbidito. Ora, il nostro voler afferrare ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, guardiamo in faccia la realtà. Non lo possiamo fare, perché ciò che è giusto per me non è giusto per te. Ciò che è sbagliato per te non è sbagliato per me. Quindi la verità dove sta? La vera conoscenza del bene e del male, noi la possiamo avere? No. Perché siamo soggettivi nell'analizzarla. E quindi la nostra disubbidienza ci ha portato a vergognarci, quindi ci siamo un attimo separati da Dio. E Dio cosa ha fatto? Da allora ha in tutti i modi iniziato il suo piano di salvezza per poter di nuovo arrivare ad avere una relazione con me e con te. E quindi ha chiamato Abramo. Ha guardato la terra e ha detto, beh, Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Attenzione, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E cosa fa? Costituisce e crea attraverso Abramo e la sua discendenza un popolo. Il popolo di Israele era partito da una famiglia perché benedicendo quella famiglia sarebbe voluto arrivare a benedire tutte le altre famiglie della terra. Mi seguite? E in Abramo noi abbiamo la nostra eredità. E ad Abramo, al popolo di Israele, ha dato una serie di prescrizioni, di leggi, perché ha detto, ok, voi siete i miei figli, voi non siete come tutti gli altri popoli, dovete dimostrare che cosa significa che io vi ho creato, dovete dimostrare che cosa significa che c'è un creatore che vi ama. Per questo io vi spiego come dovete fare a vivere la vostra vita, perché se no farete come tutti gli altri, che sono dannati e sono persi. Invece io ho scelto voi per darvi delle istruzioni affinché gli altri possano guardarvi e dire, mo, lo vogliamo pure noi. E vi do una promessa, vi darò un re, ha detto Dio. E questo re verrà e regnerà per sempre sul vostro trono e sconfiggerà tutti, la morte una volta e per sempre. E Gesù è arrivato, il figlio è disceso dall'essere con il Padre e con lo Spirito Santo ed è venuto in mezzo a noi. E ha vissuto ed è morto sulla croce, si è sacrificato ed è asceso al Padre e allo Spirito Santo. E quando è asceso al Padre, ha detto ai suoi discepoli, e se vi ricordate in Efesini 1 l'avevamo detto diverse volte, vi manderò il Consolatore. Vi manderò il Consolatore, bene per voi che io me ne vada, perché io sono Gesù e sono qui. Ma quando vi manderò il Consolatore, lui sarà qui, sarà lì, sarà lì, sarà lì, perché sarà lo Spirito Santo. Sarà lo Spirito del Padre mio che verrà e abiterà in voi. E quando lo Spirito Santo è sceso, la Chiesa si è costituita. E lo Spirito Santo è sceso il giorno di Pentecoste e ha costituito una Chiesa che non era più fatta di un solo popolo, ma era fatta di tanti popoli, perché tutte le lingue stavano ascoltando che Gesù era il Salvatore. E tutte le lingue stavano avendo la possibilità di dire, ok, io la voglio. Io voglio accettare questo Gesù, io voglio entrare in questa casa, io voglio entrare a far parte di questo popolo, io voglio entrare a far parte di questa famiglia. È nella Chiesa che noi abbiamo il compimento della promessa fatta ad Abramo. Perché la Chiesa oggi è una Chiesa di tutti i popoli. E la benedizione che Dio aveva detto ad Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, a compimento attraverso di me e di te oggi. Noi siamo il risultato di questo. Ora capite quanti testimoni abbiamo? Che vi ho citato alcuni nomi. Abbiamo 66 libri che ci parlano della testimonianza di uomini e di donne che hanno dato tutto se stessi per la Chiesa. E da 2000 anni fa, 2022 anni fa, quando Gesù è salito al Padre, la Chiesa è stata costituita. Abbiamo tantissime storie di uomini e donne che sono dei testimoni enormi di 2000 anni di storia che ci parlano della Chiesa, del valore della Chiesa, che è la sposa. Cioè Dio dice, io mio figlio, permettetemi questa metafora, lo voglio sposare con voi. Voi siete la sposa di mio figlio. Spero di aver chiarito i dubbi sulla... Ma la dobbiamo fare questa Chiesa o non la dobbiamo fare? Ma chi l'ha inventata questa Chiesa? E sapete, proprio perché siamo circondati da un così grande numero di testimoni, il mio incoraggiamento, il mio desiderio questa mattina è che noi scegliamo di correre con perseveranza questa gara che ci è posta dinanzi. Che noi apriamo i nostri occhi e ci rendiamo conto che c'è un'eternità che ci aspetta, che paragonata ai 100 anni che possiamo vivere su questa terra, è niente. E alla luce di questa eternità noi possiamo afferrare e correre questa gara con perseveranza, questa gara che Dio ha messo davanti a noi, tracciando, creando una strada, un percorso per coloro che stanno arrivando. Sapete, Abramo ha tracciato una strada per noi oggi. Lui ha detto sì a Dio, ha lasciato tutto, se n'è andato da un'altra parte senza capire nulla, senza sapere nulla, senza avere tutta la Bibbia che gli spiegava tutto il fatto. Non c'era niente. Per fede se n'è andato. E ha tracciato una strada per coloro che stavano arrivando. Ha tracciato una strada per me e per te. Perché da ogni generazione, da ogni tribù, da ogni lingua, da ogni nazione loderanno e grideranno e diranno a Dio, Gesù, Cristo, salvaci. Questa è la verità. Questo è quello che ci aspetta quando Gesù ritornerà la seconda volta. Tutti grideranno, Gesù, salvaci. Perché tutti abbiamo bisogno di Lui. Una Chiesa sana, il titolo del messaggio di oggi, lavora per coloro che stanno arrivando. Noi siamo qui oggi non perché siamo belli, noi siamo a Mottola non perché siamo belli, ci siamo ritrovati simpatici e abbiamo detto, beh, mo incontriamoci, che è piacevole. Noi siamo qui oggi per quelli che stanno arrivando, perché è per quello che Gesù ha stabilito una Chiesa sana. Ora, come noi possiamo lavorare insieme per coloro che stanno arrivando? Punto numero uno, a accogliendo chiunque. Accogliendo chiunque. Sapete, è la sfida, non so se voi vi siete resi conto, però è la sfida che l'Apostolo Paolo o gli autori del Nuovo Testamento, nello scrivere le loro lettere, lanciano costantemente alle chiese. Cioè, questo accogliere chiunque è proprio il cruccio di ogni lettera. Sapete perché? Perché tu, a casa tua, non vuoi chiunque. Te l'ho detto con l'accento molese. Tu, a casa tua, non vuoi chiunque. È vero? Io non voglio chiunque a casa mia. E quindi ci sta un po' stretta questa cosa. E io so che in questo mese passato, attraverso i capitoli precedenti, Noemi, Luigi e tutti gli altri predicatori hanno avuto modo di analizzare, sviscerare l'importanza e il valore dell'accogliere chiunque. Quindi non voglio soffermarmi su questo. Voglio raccontarvi solo una storia, un'esperienza personale. Sapete, era il 1980. Emanuele Di Carne, un fratello della nostra chiesa, che allora veniva in chiesa nostra, testimoniò di Gesù ad un ragazzo che si chiamava Francesco De Nicolo e gli parlò della salvezza. Ora, questo Francesco De Nicolo accettò Gesù nel suo cuore. E questo Francesco De Nicolo aveva un fratello di 22 anni che si chiamava Nino. Ora, questo ragazzo studiava all'università, faceva medicina e aveva una fidanzata da 3 anni che si chiamava Angela e aveva appena finito il magistrale. Forti del loro amore, fatemi dire così, sono rimasti incinta. Una bella sfida. Stiamo parlando 1980, stiamo parlando di una carriera che ci si prospetta per uno studio universitario, stiamo parlando di qualcosa che non hai programmato, che non hai stabilito, che non hai deciso che possa accadere. Francesco gli dice: guardate, io sto andando in questa chiesa. Secondo me possiamo andare in questa chiesa, vi voglio invitare, perché possiamo pregare. E magari Dio vi può aiutare e può guidarvi in quello che dovete scegliere di fare adesso che avete scoperto questo. E Nino e Angela sono venuti in questa chiesa e sono stati accolti, non sono stati giudicati, non sono stati additati, non sono stati messi da parte, sono stati amati, sono stati accolti. E quando hanno pregato insieme con il pastore, con Emanuele, con mio zio, hanno deciso che dovevano tenere questo bambino, perché era un dono di Dio. E hanno deciso che si sarebbero dovuti sposare, perché Gesù glielo chiedeva, ed era giusto farlo. Si sono fidati e si sono affidati. E sapete, la cosa più straordinaria è che 42 anni fa Gesù ha visto, attraverso la loro scelta, mia figlia Joy e mia figlia Zora. Perché la verità è che loro hanno tracciato una strada nel dire di sì a Gesù per le mie figlie. Questa è la verità. Questo è quello che fa il Vangelo. Questo è quello che fa una chiesa sana. È potente. Ha la potenza di trasformare il percorso delle vite di ognuno di noi. Una chiesa sana lavora per coloro che stanno arrivando, accogliendo chiunque. Punto numero 2. Morendo a noi stessi. Ora iniziamo un po' a sentirci un po' scomodi. E l'Apostolo Paolo lo spiega molto bene, lo spiega meglio di come l'avrei potuto spiegare io. Infatti dal verso 2 leggiamo che lui dice: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandoci gli uni gli altri con amore, sforzandoci di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace, perché siamo un corpo solo, con un solo spirito, come pure siamo chiamati ad una sola speranza. Sapete, nello studiare un po' attraverso il commentario questo capitolo degli Efesini, mi sono imbattuto in alcune citazioni di studiosi e teologi che hanno analizzato questi versi prima di noi e li hanno raccolte. E voglio citarvi alcune dichiarazioni fatte da loro sulla spiegazione di queste parole che abbiamo appena letto, sul valore dell'umiltà, della mansuetudine, della pazienza, il sopportandoci, lo sforzandoci. Che cosa, dallo studio che hanno fatto di tutti i testi originali, l'Apostolo Paolo stava dicendo agli Efesini? Mansuetudine, Mitton, dice che è lo spirito di chi è assorto nel ricercare qualche degna meta da raggiungere per il bene comune, da rifiutarsi di esserne deviato da offese, ingiurie o insulti diretti a se stesso personalmente. O addirittura rifiutarsi di esserne deviato da ogni considerazione personale sugli altri di qualsiasi genere. Cioè, quando noi siamo mansueti, vuol dire che abbiamo il nostro obiettivo è il bene della Chiesa e il bene del prossimo. Non ci lasceremo deviare da questo obiettivo che avevamo. Sai quando hai buoni propositi, che tutto sono rose e fiori, poi inizi a farli proprio così, dei disturbi dalla linea, no? E vuoi deviarti perché ti hanno offeso, perché ti hanno ingiuriato, insultato direttamente a te e tu stavi qua per quelli e quelli. Mansuetudine significa che noi scegliamo di non deviare, nonostante siamo ingiuriati. Personalmente, dice Mitton, non ci lasciamo influenzare dalle considerazioni che possiamo avere. Sapete, per essere sinceri e onesti, io ho considerazioni su ognuno di voi, come voi avete considerazioni su ognuno delle persone che sono qui. E non sempre le mie considerazioni corrispondono forse a quello che Gesù pensa di te. Così come magari la tua considerazione di me non è quello che Gesù pensa di me. Ma questo non ci deve fermare dal pensare e dal lavorare al bene comune, perché siamo mansueti. Ancora, sopportandovi. Per Abbott dice così: si tratta di sopportare le debolezze gli uni degli altri, di non cessare di amare il prossimo o gli amici a causa di quelle mancanze in essi che forse ci offendono e non ci piacciono. Non dobbiamo smettere di amarci solo perché leggiamo nell'altro delle mancanze nei nostri confronti che ci offendono o che non ci piacciono. Ci dobbiamo sopportare, ci dobbiamo amare lo stesso. E io vi amo lo stesso. Stott dice che sopportare è quella tolleranza reciproca senza la quale nessun gruppo di esseri umani può vivere insieme in pace. Nessun gruppo di esseri umani, se non si sopporta, può vivere insieme in pace. Sforzandovi di conservare, questo è forte, Caird, non so se si legge così, dice così: l'unità corporativa della Chiesa non è un fine desiderabile o auspicabile, ma un dato di fatto al quale deve conformarsi il comportamento dei suoi membri. Amara questa. E Folkes, l'autore del commentario, a proposito del corpo solo e dello spirito, dice: lo spirito costituisce la Chiesa. E lo spirito è la base della sua unità. Infatti tutti coloro che hanno lo spirito hanno una speranza comune. Questo è quello che ci accomuna, fratelli e sorelle. Ci accomuna qui, ci accomuna a Mottola, ci accomuna al di là da dove veniamo, al di là della nostra storia, ci accomuna che insieme abbiamo una speranza. E Folkes continua e dice: sono venuti da una grande varietà di background, ma il loro obiettivo ora è lo stesso. Lo spirito è la loro garanzia che alla fine tutti saranno insieme alla presenza del Signore e saranno pienamente restituiti alla sua somiglianza e possederanno la sua eredità. Calvin invece dice che nessun membro del corpo di Cristo è dotato di una tale perfezione da poter, senza l'aiuto di altri, provvedere alle sue necessità. Ecco perché una chiesa sana non te la puoi fare da solo. Ti puoi fare quello che vuoi da solo, ma non è una chiesa sana. Ecco perché una chiesa sana non è guardare una predicazione di qualsiasi pastore, di qualsiasi realtà attraverso uno schermo televisivo. Lo puoi fare, ma non è una chiesa sana. Non c'è posto migliore della nostra chiesa, della chiesa, per perfezionare il tuo morire a te stesso. Questa è la verità. Sapete, morire a noi stessi non è diventare una persona migliore. Ok, ci sono tantissimi corsi che tu puoi fare. corsi di gruppi di mutuo aiuto, un percorso terapeutico, ci sono tanti speaker motivazionali che ti aiutano a tirare fuori il meglio di te per essere il meglio di te stesso nei prossimi 10 anni. Bellissime, non sto criticando o dicendo che non hanno valore queste cose, ma non è seguire Gesù. Noi qui non stiamo parlando di questo. Quello è le popizze, un'altra storia. Noi stiamo parlando di seguire Gesù. Ora, Gesù che cosa ha detto nei Vangeli? Chiunque, mi piace che usa chiunque, quindi siamo al punto 1. Chiunque vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Devi morire. Devi perdere la tua vita, perché se la perdi, la salverai. E una chiesa sana è un posto dove le persone, i fratelli e le sorelle che ti amano, te lo ricordano. Ecco perché sono qui stamattina io, perché ti amo e Dio ti ama più di me e vuole ricordartelo. Stiamo parlando della croce di Cristo che è morto. E io e te dobbiamo prenderci la nostra croce. Perché in quella croce dove lui è morto, lui è asceso ed è disceso con lo Spirito, per me e per te. Una chiesa sana lavora per coloro che stanno arrivando, accogliendo chiunque, morendo a noi stessi. Punto numero 3, crescendo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Crescendo in ogni cosa verso colui che è il capo. E lo leggiamo dal verso 13 di nuovo. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti. Alcune traduzioni traducono maturi, alcuni traduttori scrivono adulti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Dio ci vuole maturi. Una chiesa sana è un posto dove io imparo a diventare maturo. Attenzione, perché questo non ci piace. Siamo onesti, non lo vogliamo fare, è scomodo, è più facile rimanere come dei bambini, affinché non siamo più come i bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini. Gesù ci vuole maturi, ci vuole sapienti, ci vuole con un sale in zucca che non ci fa essere dei bambini che sballottano qua e là quando cade una pena per terra e si perdono. Per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Il nostro rinunciare a noi stessi non è fine a se stesso, il nostro morire a noi stessi non è fine a se stesso. Il nostro rinunciare alla nostra vita non è fine a se stesso. Il nostro perdere la vita per amore di Cristo e dell'Evangelo non è fine a se stesso. È una scelta, ma non è fine a se stesso. È propedeutico a crescere, a maturare, a smetterla di andarcene da qua e da là, a smetterla di essere attratti da tutto quello che luccica come delle gazze ladre, che pensano che sia oro e poi un pezzo di vetro. E rimaniamo fregati, scusate la parola, ma essere stabili, essere concreti, essere risoluti, essere fermi, essere solidi, essere degli uomini di sostanza, essere delle donne di sostanza. Questo vuole fare Dio di te. Se ci fossimo visti a casa mia, ti avrei detto, cresci. Così. Cresci. In ogni cosa, dice l'Apostolo Paolo, in ogni cosa, verso Cristo. Ma sai, Antonio, tu non sai la mia vita com'è. Io non lo so com'è, è vero, ma Gesù lo sa. Lo stai coinvolgendo? E poi, parentesi, neanche tu sai com'è la mia vita. No, voglio fare pure io quello peccato. Che ne sai io come sto? Pensi che tutto vada bene, ma non lo sai come io sto, quindi non mi giudicare. Oppure una cosa che mi sono sempre sentito dire, ma tu sai, lui è fatto così. Lui deve morire a se stesso e non sarà più fatto così. È facile, è semplice, è lineare, è chiaro. L'esempio di una persona, secondo me un esempio di una persona matura nella fede è una persona che non aspetta che qualcuno gli chieda come stai, ma se non sta bene lo dice lei per primo. Se tu sei un mio amico e hai avuto modo di stare con me, lo sai che io ti dico sempre, non aspettare che io ti chiedo come stai. Se non stai, dimmelo. Perché se non stai, io ci sto. E io ti posso dire una cosa, che quando noi chiediamo aiuto, in chiesa, una chiesa sana, c'è sempre qualcuno per te. Quando qualcuno mi ha chiesto aiuto, io ci sono sempre stato. Una chiesa sana lavora per coloro che stanno arrivando, accogliendo chiunque, morendo a noi stessi, crescendo in ogni cosa verso Cristo, donando noi stessi senza pretendere nulla in cambio. Donando noi stessi senza pretendere nulla in cambio. Sapete, tante volte noi serviamo e doniamo tutto noi stessi e senza volerlo ci carichiamo di aspettative che qualcosa ci sarebbe dovuta essere riconosciuta, che qualcuno ci debba dire qualcosa. Non lo so, un leader, un pastore, e non ci dicono mai niente. E poi ci carichiamo di questa aspettativa che non viene incontrata nella vita pratica, nella praticità, nella quotidianità. E ci ritroviamo poi nella posizione di pensare di poter pretendere qualcosa. Ho fatto tanto. E questo è il ringraziamento. Una chiesa sana lavora per coloro che stanno arrivando, non lavora per se stessa. Io non servo per me stesso, io servo per coloro che stanno arrivando. Non serviamo la chiesa per compiacere noi stessi. O il nostro leader, o il nostro pastore, per quanto gli possiamo voler bene, ma serviamo per tracciare una strada per coloro che stanno arrivando. E sapete, nel corso di questi 20 anni, sono 20 anni quest'anno che io servo la Chiesa, 20 anni che servo la Chiesa, ho imparato a donare me stesso senza pretendere e aspettarmi nulla in cambio. È stato facile? No. È stato bello? Non sempre. È stato piacevole? È stato utile? Certo, perché mi aiuta a diventare un uomo adulto alla statura del carattere di Cristo. Da lui, verso 16, tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Una chiesa sana trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni suo membro. La nostra Chiesa trae il proprio sviluppo nella misura del tuo vigore. E se fossimo stati a casa, ti avrei chiesto qual è il tuo vigore? Ci saremmo confrontati, avrei parlato pure del mio vigore. Qual è il tuo vigore? Domanda. Venire la domenica in chiesa, in questo locale o nel locale di Mottola, sederti alla sedia e analizzare tutte le cose che non vanno, o rimboccarti le maniche e dire faccio io qualcosa per tracciare una strada per gli altri, dato che tante cose non vanno. Qual è il tuo vigore? Lamentarti che nessuno ti cerca? Questo è il vigore che apporti? Sapete, io non so cosa tu pensavi accadesse quando hai iniziato a venire in chiesa e hai accettato Gesù 20 anni fa, 10 anni fa, 5 anni fa, 1 anno fa, non so come te l'eri immaginato, ma io non servo, posso parlarti di me, di quello che è la mia vita, io non servo la nostra chiesa da 20 anni perché qualcuno mi possa cercare, io servo questa chiesa da 20 anni perché io scelgo di venirti a cercare. Non vivo la Chiesa per prendere qualcosa da noi, ma vivo la Chiesa per donare qualcosa a noi. Sapete, una Chiesa sana non è fatta di relazioni tra fratelli e sorelle dove prendi, prendi, prendi, prendi, e quando poi a un certo punto non prendi più come ti piace o come ti aspettavi che potevi prendere ancora, te ne vai. Non funziona così. Benvenuti sul pianeta Terra, siamo a Modugno, è il 6 novembre del 2022. Non funzionano così le relazioni. Una Chiesa sana, il nostro essere qui, non è per prendere l'uno dall'altro, ma è per donare l'uno all'altro. Per quello siamo qui. Perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Anzi, quando doniamo, allora davvero riceviamo. E se io mi fermo a parlare con ognuno di voi qui a Mottola, so che questa è la vostra testimonianza e so che questo è quello che mi raccontereste. Il vigore di una Chiesa sana serve per creare una strada per coloro che stanno arrivando. Questo deve essere il mio vigore e questo deve essere il tuo vigore. È funzionale a chi sta arrivando e non sa ancora che Gesù lo ama. E ora c'è, e concludiamo, con il verso preferito di questo capitolo per me, il verso 7. Sapete, ogni anno, all'inizio dell'anno, con la mia famiglia noi stabiliamo un versetto che ci condurrà per tutto l'anno. E a gennaio abbiamo stabilito questo verso come il nostro verso per quest'anno. Quindi immaginate le volte da gennaio che me lo so predicato. Non te capisci. Ma a ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. A ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo. Qual è questo dono? Qual è questo dono che abbiamo ricevuto? Perché in proporzione alla misura del dono di Cristo per me e per te, noi abbiamo ricevuto grazia. È vero? Una grazia per svegliarci ogni mattina e vivere la nostra giornata. Una grazia per perdonare chi ci fa male. Una grazia per sopportare il nostro fratello e la nostra sorella, che è difficile. Una grazia per essere vigorosi nel servire senza bruciarci. Una grazia per affrontare la vita. E sapete una cosa? La vita accade. E spesso la vita accade al di là di quello che noi possiamo programmare, al di là di quello che noi possiamo pensare, al di là di quello che noi possiamo scegliere. E non scegliamo sempre noi quello che la vita ci fa cadere. Ma noi possiamo scegliere di aggrapparci a quella grazia che ci è stata donata secondo la misura del dono di Cristo per affrontare la vita che ci accade. E Paolo spiega nei versi successivi al verso 7 qual è questo dono di Cristo. E lui parla che lui è disceso ed è asceso ed è in questo discendere, in questo ascendere che lo Spirito è sceso ed è venuto, e lo Spirito Santo è il nostro dono che Cristo ci ha fatto. E lo Spirito Santo è qui oggi, era qui ieri e sarà qui domani per me e per te. E lo Spirito Santo è sceso affinché, nel verso 10, Paolo scrive agli Efesini, riempisse ogni cosa. Riempisse ogni cosa. E io non so che significa vivere quello che tu stai vivendo. Io non lo so. E forse non lo potrò mai sapere. Perché io non sono te e non sono nella tua situazione. Ma Gesù, sì. Gesù, sì, e lui ti ha donato lo Spirito Santo che ti riempie di grazia per affrontare qualsiasi cosa tu debba vivere. Questo è un uomo maturo, questa è una donna matura. Ecco fino dove può arrivare il tuo vigore, ecco fino dove può arrivare quel tuo vigore. Tu ce la puoi fare, anzi, qui è a Mottola. Ti dico che ce l'hai già fatta, perché Gesù ce l'ha già fatta. E io vorrei pregare con voi, ci alziamo in piedi e invito la band a salire sul palco. Voglio leggere con voi questa conclusione che ho scritto al nostro messaggio di oggi. Chiudiamo i nostri occhi e prendiamola per noi, come una dichiarazione che noi facciamo per noi stessi, per la nostra vita. Una chiesa sana è una casa nella quale io sono accolto come sono, per scegliere di morire a me stesso. È una famiglia nella quale io non rimango così come sono, ma imparo a crescere alla statura di Cristo e mi sfido a donare me stesso con vigore, senza stancarmi, perché voglio creare una strada per coloro che stanno arrivando. Signore Gesù, io ti ringrazio perché tu ci chiami a vivere una vita che è più grande di noi, una vita che non è per noi e per il nostro bene, ma è una vita spesa per il tuo regno, per la tua promessa, per quelle famiglie che tu hai stabilito che siano benedette attraverso di noi. E noi vogliamo arrenderci questa mattina, vogliamo riconoscerti che in te c'è la nostra vittoria, perché tu sei senza rivali, tu sei senza eguali, è magnifico il tuo nome e a te ci rimettiamo. Vogliamo scegliere di morire a noi stessi, vogliamo scegliere di rinunciare a noi stessi, di perdere la nostra vita. Ogni giorno svegliaci ricordandoci di questa promessa che ci hai fatto, affinché possiamo crescere in te, crescere alla misura della statura di Cristo. Ti amiamo, Gesù.